attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Mamma mia. Hola. Attenzione, canale 10, Gambio. E beh già. Ui, ui. Ciao, su, arrivi. No, stavo provando il checco. Ho un mal di testa, cazzaro. E fidati un occhio. Cappa, come va questo microfono da 9,90€? Benissimo. Questo costava un bel dinaro. L'ho fatto a 70% di sconto, ce l'abbiamo preso io e... Franco della stazione, dai. E te, che microfono è? Della Midland. Con l'eco. Eia, c'ha l'eco, c'è tutto quanto, sembra... come cavolo si chiama il... il microfono buono della Intec che facevano prima, non mi viene il nome, è uguale comunque. Dimmi mille. No. Ricordo come si chiamava. Perché c'era il cursore davanti che era quadrato, ce l'ha presente? È un a me. Eh? È un a me. Uno a te. Perché non te lo prendi? Stanno vendendo su internet, se ce n'è ancora, era un'offerta. E dove? Sul sito della Midland, pagina 2. Si chiama... F100, hai capito Luca? L'F100, ecco. Aspetta. Sito della Midland. Ah, che se diceva l'M300, vuole l'M300. Esatto. F multi c'è scritto, 20 euro costa. Ma sul sito della Midland sei andato? No, c'è l'Eco Level, Midland F multi. Allora, ti ho detto, devi andare sul sito della Midland, è lì che stanno facendo l'offerta. Costa 9,90€ più la spedizione, che mi pare che sia 5€. E niente, è lì, sul sito della Midland, pagina 2. Allora, offerte Midland, mi da Amazon però qua, Midland.it, vediamo. E come lo mandano, a pagamento a casa? No, no, devi pagarlo prima. Sì, e con cosa? Con la posta qui. Ma se www.midland.it. Mi sa di sì. E non me l'apro. Rossa, scrivata bianca. Vai su Google e metti e dici sito della Midland e te lo dà. Allora, ecco qua, Midland, beh, accetto. Pagina 2, perché c'è pagina 2? Sì. Ci sono i numeri 1, 2, 3, tu vai sulla pagina 2, prima guardi sull'1, poi ti appaiono i numeri e vai sul 2. Microfoni civili, vediamo. Ma c'è poco, vabbè. Una giugana va. Sì, l'ho trovato io, boh. Si chiama F100, va molto bene, e prima costava sulle 57€, roba del genere, abbiamo pagato una cazzata, mi pare che ci è venuto 3€ in tutto, nemmeno. È bello, se esce bene, dove l'hai agganciato, il 2009. Cioè praticamente chiudi tutto l'eco e esce così, poi lo apri piano piano e va sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, capito? Ascolta una cosa, ma l'hai agganciato al 3009? Al 3009 ti arriva con lo stesso attacco, tu lo metti e già funziona. Comunque non costa 10 euro, costa 15 euro. C'era l'offerta, quando l'abbiamo preso noi l'abbiamo pagato 9,90€, l'uno. E più la spesa su 15 euro. E più o meno sì, dai. Non so, più 10 euro già. Va bene, comunque. Perché lo c'è levare? Sì, sì, a voglia. Questo l'ho messo col 3009, l'ho affiancato al 3009. Non ho fatto altro che tirare lo spinotto e funzionava già. Pensavo che avesse gli attacchi Midland e che dovevo girare gli attacchi, invece ce l'aveva già predisposto. Ecco, ho capito. Cazzo, hai avuto mal di testa, mio amico. Come mai? No, non lo so. Ma sono preso un freddo oggi. Ma lavorando stai lì? No. Tutti che promettono, ma poi, nada, lascia perdere. Vabbè. Già prima o poi già esce qualche cosa. No, ma non posso lamentare, me la volete me li faccio, eh. Tranquillo e sereno, non agita nessuno, mi giambia. Vabbè, certo, uno si deve dare da fare, già non si può dire che non ti dà da fare, tu ogni cosa te la fai. Dico, serve sempre un lavoro fisso che ti dia uno stipendio, capito? Quello, perché poi è fine di pensione, cosa c'hai? Niente. Se posso qua, a già posto mi ammazzo. Ho mandato un curriculum. Adesso ho fatto dei curriculum, ho le foto, le devo portare da qualche parte, adesso vediamo un po'. Cappa. Vabbè. Portali. Se c'hai delle mole, diciamo, se lavorati in altri posti che hanno dato delle buone cose, delle buone referenze, già bene o male lo trovi. Lui, per carità, ci aspettiamo, se ho fatto la raccomandata, mi è arrivata la risposta, vediamo un po' come mi chiama. Ma qua già sei le fatte? No. Ho capito. Adai, chiude. Avanti, chi è? Chi sei? Ci va Romacco, non ti posso subentrare. Avanti, con nome attivo, se no continuiamo noi a parlare. Ah, tu sì, fratello. Non ti ho riconosciuto. A me si disegna, Manuel. Manuel, io sono appietato, come faccio? Sì. Casino. Lo so, però... Non è che io mi posso comprare una macchina, fatta guaglia, una di sì e di sì no, non ha senso. C'è anche il tram per San Giovanni, lui. Aspetta il telefono, è me, fratello. Capito, lui. Ci sono anche i tram che vanno. Ah. E tu, Manuel, ci vuoi andare a vittare il bulloni a Circo Zanfretta? E Torino non si è sentito, no? E anche io, cuglia. Io mi sono cantato sino adesso ho smesso un po' e ho acceso l'apparato. A fare che? A vedere qualche radio? Ah. E perché cosa c'è a più fuga sul ospedale? Ah. E vabbè, io ci andavo spesso in quella zona a fare i funghi, però verso Irula, Samera, quella zona lì. Già lo so, cioè, ti veniva voglia di tuffarti da quanti funghi c'erano, che una volta avevo trovato un albero pieno, sotto c'erano le pecore, era tutto pieno di funghi. E lì non fanno quei funghi, come si chiama, massa di tamburo non ne fanno, prendono solo frattaioli e coso, frattaioli e antunna. C'erano certe masse di tamburo con uni a gabbo umano, però sono andato a toccarlo, questo qua c'è tutto sfrangellato, deve essere a fradicio. Ma non so quanto ce l'era, una busta di facivi, perché vabbè, c'era praticamente mio cognato, era di Irula, no? E il padre ci aveva qualche pecora, ma per casa, non è che era pastore, ci aveva qualche pecora per fare il formaggio per lui e roba del genere e basta. Qualche agnellino e praticamente quando pascolavano le pecore sapeva i punti, ci ha portato in questi posti, guarda, che sono proprio dimenticati da Dio, cioè lì non ci va nessuno proprio. Però quando sono stato a casa sua mi è passata la voglia di mangiare i funghi, ho mangiato il sugo con i funghi, con la pasta asciutta sembrava carne, se antulla fatti col sugo, ne ho mangiati fritti, ne ho mangiati in tutte le maniere, arrosto, cioè ho mangiato funghi in tutte le maniere, me ne è passata la gara di mangiare funghi, eppure io lì lo stesso, cazzo sembra carne, mi fatta col sugo per la pasta, sembra carne, di antulla, quelli teneri, quelli piccoli, che se poco sono buoni. poi li faccio Turio, li faccio fare tutte le maniere, dai. E i funghi lì non mancano. Adesso non lo so come, io ti sto parlando un po' di anni fa, adesso non so se ci siano ancora o con la fame che c'è magari non c'è più nulla, perché prima anche gli asparagi si trovavano a gogo, adesso boh, non c'è più a chi ve una fame in giro, manco un bietole ti lascia. Sì, ma io, ma noi a camminare io un po' adesso stento, dai, perché mi sto riprendendo piano piano e mi stanco subito, capito? Mi stanco dopo un po' di metri che faccio, mi stanco e devo riposarmi, quindi non fa, che non vai alla Fedoce a fare l'esame del sangue, io l'ho fatto lì, dove c'è il semaforo più giù di Sanna, del Marsanna, e comunque l'ho fatto lì, il giorno dopo mi hanno dato il responso, poi il giorno dopo mi hanno chiamato al centro diabetico per andare a fare la visita, sembrava che me lo sentissi, soprattutto la prostata, e io l'ho fatto, non sapevo quello che mi facevano, cazzo. Quando mi ha detto devo andare via rettale, ho detto come, scusi? Ma com'è non ti ha giubilato gusto? E io quando venivi, se ci passavo dito tutto attorno per vedere se c'erano rigonfiamenti e cose, ho detto che tutto va bene tutto quanto, fra 5 anni viene e se la rifà. E non lo so se è ogni 5, però io l'ho fatta dopo 5 anni, poi non ne ho più fatto. Ah, chi mi dà di sì. No, ti mettono il dito nell'ano, perché da lì praticamente col dito arrivano nel punto dove c'è la prostata, capito? Arrivano lì, col dito toccano e guardano se ci sono delle perturberanze, capito? Meglio che non venisiani. No, ti mettono la vasellina. No, ti mettono un gel col guanto, si mettono un gel e via. Ma cosa, un maschio, di chi si puro muscolosi. Magari da questi mi dico, oh Manuele. E purtroppo la visita è quella, io non lo sapevo, lo sai. Sono andato senza saperlo. Invece chi mi ha portato sapeva la storia, stava ridendo fuori, capito? Aspetto Gianni, buonasera, hai sentito? Uè, Giovanni, allora, come andiamo Giovanni? Adesso adesso acceso e niente, sono un camper perché devo uscire a fare una commissione e ho acceso, sto bene? Tutto bene, tutto bene, dove sei adesso? A casa ancora, sto facendo riscaldare un po' il motore. Santiago, Radio 5, stai arrivando, bene, bene, bene. Non so che radio stai usando, però va bene. Sono in compagnia di Emanuele e di Luca. Avanti Emanuele. Giovanni, hai sentito Emanuele? Niente, neanche una parola. Prova a fare un passaggio a Luca. Comunque lo saluto, se mi sente, io lo saluto. Ciao Emanuele, diversamente salutamelo tu. Prova con Luca. Ehi, anche lui ti saluta Emanuele. Emanuele, ti saluta anche Giovanni. Avanti Luca. Ehi, io lo sento, basso. Ciao Giovanni, mi ascolti? Ciao Luca, ciao, hai sentito? Ehi, ma Giovanni, di Platamona, sì. Sì, sempre positivo, sempre a Platamona. Sto ricambio a Roma, bravo. Abbinati un vino, Giannetti. Stavo scherzando. E a chi mi è buono? Già va bene, già va bene. Non ne puoi bere, Giovanni? Soffocamento quando fa così, meglio di no, meglio di no. Allora Giovanni, si la bide luci via, e basta, avanti Luca. Aspetta, già che sto mandando un messaggio al barbershop, aspetta. Che hai ragione già, proprio soffocamento mi prende, dunque non ne bevo. E tanto non è una cosa essenziale, da a me era una battuta solo, da non è una cosa essenziale il vino. Vabbè, per chi è abituato, io posso farle a meno volentieri. Mi piace molto il lambrusco perché ti fa digerire gasato, mi piace. A te ti piace la crema? Quello me, arrivi due, per carità. La crema ti piace a te, Bobolucci? Chi c'è in ruota già? Io, Emanuele, Luca e Giovanni di Plattamona. Ciao a tutti, Luca. Emanuele, brutto cicomone e mare di buco. Non c'è, no. C'è la famiglia di Pissava. Lui apre il frigorifero e mangia. Male così, dai. Magari impegnato. Luca. Oh, c'è tra tutti, siete tutti spariti. Cosa mangio la lebbra? Che cazzo veramente mi sa va? Giovanni, avanti, Centolino, le sento. Boh. Giovanni. Manco Giovanni risponde. Cosa è successo? Boh. Attenzione, Giovanni. Mi colpi. Allontanarsi dalla linea gialla. A me mi sembra che tu stavi parlando da solo. Cosa? Non è che stavi parlando da solo, no? No, no, io stavo parlando, c'erano tutti. A me mi sa che tu c'hai l'Alzheimer. Tutti fuggiti, sono. E così male faccio io. Non si spaventano dentro io. Ma... è un caso, sicuramente si sono allontanati. Emanuele, ci sei? Luca? Sì, aspetta un attimo, ciao Antonino. Ciao un attimo, già che sto... devo prendere l'appuntamento per la Pasqua. Ehi, per la Pasqua? Barba. Ah, cappa cappa. Per la barba, te la fa il barbiere? Sì, ho la macchetta adatta per farle bene, dritta, sotto, bene, perfetta. E lui è il barboncino, anche lui deve fare bene, no? Anche se la pazienza poi sbaglia e ci va in doccia. Divino. Via. Comunque già stai bene lui, con la barbuzza, dai. Sono un po' l'accorciata, dai. Quando l'hai visto tu la più lunga, un po' l'accorciata ai fianchi. Praticamente il pizzetto rimane più lungo, ma già se la barbiere se la prende, se la arrangia, sai come fare. Io non so da crescere baffi e pizzetto e maestro assomiglio carabinieri, allora mi raggiungo il bugatto. Sì, ma tu pure me lo dissi. Io ho una vita che vi raggio pizzetto. Ma tu ce l'hai fino fino, io ce l'ho bello rosso, invece, capito? Me l'ha folto. E allora, faremo un dissi puzzinussi che... Ma a me grosso non piace, non mi piace grosso. Ma quando tu baci, siete punti, grosso va bene. Io parlo del pizzetto. Di pizzetto che io sto parlando. Ma... ah, sì. Oh. Mi sa che devo fare la crema. Ah, c'è a perdere la crema e ti fa male. Stamattina ho fatto la cicciata, alle 5 e mezzo ho messo a cucinare, alle 8 meno 4 ho spento. Un bombo era già, un bombo. No, io non ne so fare, non ne ho mai fatto cicciata, sinceramente. Non mi so come ha pintato a fare. E invece è buona, fa bene. Quando tu prendi il ciccio, ho mai trovato quelli bastardi di cicci, quelli piccoli piccoli, io ho trovato quelli grossi e non li ho trovati. Quando tu prendi il cicci, li metti a bagnomaria, tiepida l'acqua, un cucchiaio di bicarbonato di sodio, metti il tappo e aspetti, indomani apri il tappo e sotto viene gonfiato. Le metti in una pentola e fai cucinare. Quando sono mezza cottura, quasi cotti, no, quasi cotti, mezza cottura. Allora, automaticamente ci metti la carne, poi ci metti la cipolla, ci metti il finocchio, capite? Poi ci metti l'avverza. Lasci cucinare per un'altra 3/4 ora, come ha fatto io, fino un'ora, e poi spingi. Quando è bello riposato, già, cosa ti mangi, Sant'Antonio mio? Ma poi, ogni concerto. Io già c'ho le campagne, infatti uno mi pare che ha detto verso il pomeriggio, le 4:30, ma mi sento che sta tuonando. No, io mi sono fatto un po' di brodo oggi, brodo di carne, niente, me ne è avanzato anche per stasera, me lo scalderò e mi mangio anche stasera quello. Come ne sono avanzati i cicci? La carne non c'è più. Tu pensa che avevo 3 pezzi di pancetta bella grande, tagliata a pezzi, e più 6 salamini, fatti a pezzi stesso. Niente, l'ho dato anche ai cani, sai, tutto bagnato, buzzino di vecchia. Io so, 2 pezzi ho assaggiato anche troppo. Mi sono rimasti, diciamo, tutto il resto della cecciata con un po' di cicci, e mi mangio quello lì perché a buttarla via mi dispiace già. È uscita buona, e ripeto, no, oggi la roba vuol cagare. Non si butta a far bagnare così. No, io non ne butto. Io se mi avanza me la scaldo la sera e me la mangio, non me ne affatti nulla. E non è roba schifosa, non è roba buona. Lo so, però tranne il minestrone, vedi, lo rimangio, eccetera. Tranne che la pasta asciutta, io ho messo, scaldata non mi piace. Allora metti i cani, capito? Io la pasta asciutta no, tutto il resto. spesso ci passa le ticche, passa patate, minestrone, insomma così sì, me la mangio quanti la sera. Però la pasta asciutta non mi va. No, io anche la pasta asciutta, ci metto un po' di burro, la scaldo e la mangio. Non si la può nuda. Ci ho messo due cipolloschi, ma belle grosse. Un bel po' di carote, infatti ne ho messo anche a taglio di carote in mezzo alla roba da mangiare, così mangio un po' di verdure. E niente, mi sono mangiato due cipolle belle grandi, un po' di carote e un pezzo di carne. E mi ha proprio bello saziato, solo che mi ha fatto un brutto effetto. Vabbè, so cosa succede, cosa volevo dirti, non me la metto più. Già, stamattina ho detto il buongiorno, presto, e mi ha risposto Carlo, è già scindato, stava lavorando oppure non lo so. Ma a Carlo le manda. Il buongiorno si lo manda anche a lui, come lo manda a te. No, dico, forse stava lavorando così, speriamo che sia forse lavorando, se no secondo anche la glielo mandi, all'Inzico di Manzano, riscendi. No, non era il buonottino, perché quando dico subito, allora, basta che prendo uno a caso io. Alle 7:08. Se non stava lavorando era imbucato. No, se mi ha risposto tranquillamente, non gli ho chiesto niente. Gli ho mandato, mi sembra un caffè, è una briochina. Perché parliamo sempre di caffè brioche. Non le tese lo saggio di San Franco la carina. No. Se mi fanno male, mi fanno ingrassare le brioche, e te vabbè tu ce le mandi ogni mattina. Sì, l'ho sentito quello. A proposito, è frenzato Franco, È frenzato? Sì, c'ha la febbre. Corarini. La tosse, Romania, di tutto. Infatti ha detto, è meglio che lo telefono meno, sennò poi mi contagio via i telefoni. Ehi, mamma mia, poi tu sei pericoloso. Tu quando ti vieni in fretta la contagia tu. Me la devo scaricare, scusa, io me la devo dire. La storia Iro che ha fatto, l'ha contagiato alla tua ex moglie, a tua figlia, a me. Io l'ho contagiata a Elena. Aspetta, Monica, la mamma di Monica. Pizza al mezzo ti la sbucata. Cis. Allucinante. E la mamma se l'ha detto roba di tre chilimi, sempre tossendo, poverina. E non l'è passata. E adesso, tutt'oggi, quando c'ero io che ho mangiato anche la sua, un po' di tosse, ha detto, ancora la tosse c'ha. Lì me la finisca. Era quella pesante, era, cioè io l'ho preso un pochettino così, ma poi quando la espello ne mando un po' di pesante. No, a me mi è durato un bel mitoni, a me mi è durato molto, e mi dice alle luci ogni volta che tu si vola di quella secca te le facciamo uscire gli occhi, mi lacrimavo più. Comunque da una parte ti sta bene a te mia. E per quale motivo? Perché tu mi hai portato a vedere quel cavolo di coso, la corrida, a me me ne è contagiato il coronavirus, a te niente. Allora, permetti che un pochino di anche a te deve venirti qualcosa. Ma basta che ti ne varia. Ma guarda, preparati che fra poco c'è me. Lascia aperta, cosa vuoi dire, col casco integrale e il capotto? Ti metti la mummia, la cosa, la mascherina. Cazzo la pubbia, forse in Egitto devo andare a pigliare la pubbia. Dai, facciamo un casino, mi diverto, mi sono divertito un po' una volta, specialmente quando c'era quella delle pulizie, ui. Troppa gente, troppa gente, senza mascherina, un casino, già. Là, ti attaccano anche il bombino. La mascherina te la metti, scusa, E poi c'è troppo caldo, troppa gente, vedo come 2000 persone che ma cosa? Che già stavi bene, ti stavi divertendo, cosa si dicendo? Ma c'ha più lungaggio, lungoso, stava bene. Era un bello spettacolo, ci siamo divertiti. Luca? Faccio qui la bustina, cazzo di rumore dei mal di capo, per carità. Va bene, alle 10 al mar viene. Tu che sei sempre informato, la corrida quando la fanno? Ma ammazzo, ma non lo so quale giorno. Già presi i tuoi biglietti? Ma che no, Non le prendi? No, ci vado. Bravo Luca. Ma sta quota già la salmonella. Perché tu non ci vai? Perché non mi interessa. Sei sempre andato, pu. Ehi, a Paeta andavo. E beh, a Paeta non mi può più andare. No, mi sono cupo, mi sono lasciato. Porra. Ma stavolta definitivo, già, basta. Sotto le palle. E vabbè, sempre così diciamo, poi. Sei Torino quattro volte l'ha detto. Sto dicendo questa volta basta. Già, se lo dico, vuol dire così. Ho detto, ma di volta, ma questa volta basta. Poi ho finito, non voglio più manco vedere. Qua ti faccio, andiamo insieme, non c'è problema. No, ma io non ho problemi, io non mi ha portato nulla. No, io già mi sono divertito, mi ho portato il fischietto. Io ci avevo la trova d'aria. Siamo detto un giorno, andiamo e ci mangiamo una pizza assieme. Un sabato, organizziamo, 3, 4, 5, andiamo e ci mangiamo una pizza. Già si può fare. Anche la fine si può mangiare. Io ne ho un po' di voglia. Pizzo chi è? Tutto è buono, anche una bella favata, trifora. Ma scusa, Martino ancora le favette a ribisare? Sempre. C'è ancora? Sì. Ah, lì era veramente buona la roba. Noi andavamo dalla Croce Blu con i pentoloni, ce la prendevamo e ce la portavamo in sede e mangiavamo tutti lì. Anche la trippa era buona, raga. La trippa, tutto. Tutte queste cose qua le prendevamo, ce le pagavamo e ce la portavamo in sede. Andavamo col pentolone. Io la mangiavo dentro, all'interno. C'è col bancone c'era. Ancora c'è l'uno, una farà del genere. No. Tutto modificato adesso. E quindi dove la mangi? Dentro, poi tavolini. Ah, io perché c'ho il tavolone grande, c'era con il musatore, c'era che si mancò nel legno, loghi ronghi. Vabbè, sto parlando degli anni che furono, degli anni 70. Ci ho mangiato anche io quei tavolini lì, bottoni. Anni 70. Sì, ci andavamo tutti in greffa, me lo ricordo. Vabbè, comunque, io per la Fenici sto. Cosa? Per la Fenici sto. No, non la giù compresi, ho detto, se si organizza per mangiare la Fainì, io ci sto. Ah, perché c'è troppo forte, cazzo, sai, e cosa c'è un amplificato? Quel microfono SBA. Cazzo, ne ha radio. E stai modulando col Galaxy? Yes. Cazzo, ne ha radio che ti fa. Forte, Luca. Ehi, confermo. No, non mi sento io, non posso sapere. Ti metti un paio di cuffie e ti ascolti con l'altra apparecchia, sai? E devo mettere le cuffie all'altro apparecchio. Proverò con un altro 23. La mia forte, Tony. Eia. Non è che la tua. L'uomo è forte, ma è un amplificato enorme, gà. Questo è un MV+4 modificato 20 anni fa. Esce forte, gà. E quella l'aveva fatta Adriano, mi pare, vero lui? Così dico. Sì, ce l'aveva Natalino, poi l'aveva fatta, mi pare. E tu l'avevi messo da uno vecchio che era, l'hai messo in uno nuovo. Confermi? Ferra. Ma vedete, me la metto di cose. Ma ti parlo di un po' di anni fa. Senta che ho mai amplificato, gà. Ehi, è così, Gianni. E io voglio provare a mettere la capsula del TRQ3. Ma dice che va già bene così, mi sa che non la subissimo. E tu da dove c'è questa capsula del TRQ3? Ce l'ho avevo. Non è che ne hai bucata la ghito che hai venduto, no? Cazzo. Ah? L'ho pensato. Fussi. Sì, mi serviva. E mai, è seguito sulla pizza. Ah, sulla pizza. E ho messo una capsula buona, una capsula di quelle che ci toffano, vanno bene lo stesso. Hai capito. Truffaldino, gà. No, ne ho mai fatto di queste cose, ce l'avevo da prima. Sì, io te l'ho tirata così, ma da lì, azzeccato. Però sai cosa c'ha? Non saldano i fili nei contatti. Non riesco a saldare i fili, non capisco il perché. Ho provato a buttare lo stagno sopra e si sta. O meglio, ho messo anche la pasta salda. Niente. Con la pasta la proprio saldare. Sì, pasta salda, sì. Io sento la voce bassa, senti con nome. Anche io la sento. Wee. Vabbè, comunque. Allora, giovedì trullalino, sabato trullalà, e lui, boh, non lo so cosa può capitare, ma è meglio quello di sabato che giovedì. Cappa. Ma dice che tutta la settimana fa brutto tempo. Lascialo fare tanto. Noi siamo fortunati. Confronto è fuori, guarda, la penisola, i nuovi si chiamano troppo. Per tutto siamo più fortunati. Hai visto cosa il terremoto, cosa, come ha fatto a crollare quei palazzi? Sembravano piume come scendevano. E questo è nulla. Ne si chiuderà ancora più forte, ma in tutto il mondo. Non è che noi ci salviamo, tutti. Se continua a rubare la roba che c'è nell'interno della terra, è ovvio, la stanno svuotando. Quell'assestamento si comincia a rompersi le balle, alla fine si apre tutta, pigliatevi la luce. Tu non ci credi, vedrai che un giorno arriverà così. Mi auguro di non accattarmi più. Mi auguro che ti stai sbagliando. No. Tu la persona che togli il sangue, lo togli oggi, lo togli domani, dopo domani alla fine si sciara. E così la terra, li stai togliendo tutta la nutrizione che c'è alla terra. E li togli il petrolio, e li togli il gas, e li togli il carbone, li togli l'oro, li togli il ferro, li togli il zinco, togli tutto le sue bocchette. In maniera spropositata, perché magari togliendolo in una maniera giusta non farebbe nulla, o perlomeno molto meno di quello che sta facendo. Se non se ne sono mai sentite di tutte queste cose qua, va, trombe d'aria, Guido, Guidaccio, magari dai, terremoto, cazzo, ho visto come si muove fa la terra, questo qui era in macchina, ha fatto il filmato mentre c'era le scosse di terremoto, sembrava le onde del mare, ce l'ha presente. Cappa, i terremoti te ne hanno ragione. Le trombe d'aria è tutta un'altra cosa, sono due correnti opposte che si incontrano, capito? Poi specialmente in America, chi vi l'ordine del giorno, infatti fanno catapecchie e le catapecchie le butta giù. Molti si fanno anche il ripostiglio sotto terra, tanto è vero quando c'è qualche tromba d'aria, qualche ciclone grosso, si muove dritto, dopo che è passato è solo fuori, la casa non c'è più. Sì, questi se crolla qualche cosa, seppellisce direttamente. No, che sono case che catapecca proprio di cartone, dai, masonite, cosa, una roba leggera, e Roberto si butta via tutto. No, si porta via anche le case fatte bene, i tetti li fa volare, cazzo li ho visti io, poi lo fa volare tutto, lì non è che ci sono dei tiranti nell'antenna, no, qui si porta via case, le macchine, i camion, cioè non guarda nulla, prende tutto. Ma sinceramente no, dai, che è più difficile. Vedi il camion volare, quindi sì, le mucche, mooo! Poveracci, Giovanni, ci sei? Giovanni stanco! Ma Drumito dice! Ma sei stanco, farà riposare! Mi, questo qui è dolore! Questo c'ha il morbillo! Oh yeah! Italy from Sardinia! Oi! Giovanni Stanco, attenzione. Comunque se ne è aggiunto un altro, quello Dina Lampadina e Dario Lampadario. E poi c'era Rino, Mandarino. Eia. Oh, c'era anche Cingomino, se ne è andato. Attenzione, Barre del Bucco. No, buco. Vabbè, dai. Quando è che ce l'organizziamo la Fenix, che era buona, raga? Cosa? Quando ce l'organizziamo la Fenix? Ma io passa, e ce l'organizziamo, non c'è più. No, oggi c'ho i cicci, a vera posso la pazzini. Oia, allora mangiati i cicci, io c'ho il brodo, ma stasera non ne mangio, se no mi fazzi. Mi volevo fare una minestrina stasera col brodo, e invece, perché per scaldarmi, no? E invece ho paura adesso, boh. Questo effetto che mi ha fatto strano. No, che buono il brodo, dai, che fa bene pure. Luca, ci sei? Io sono qui in fase di guarigione mal di testa. Sapete una cosa, invece? Non so perché, ma da quando mi hanno ricoverato per il cuore e tutte le pastiglie che mi sono ubbidienti, tutt'oggi, non mi è più venuto mal di testa. dicendo la verità, mai. È meglio così. Io grazie a Dio non ne soffro, ma c'avevo una collega che ci aveva sempre le pastiglie in borsetta perché soffriva di un'emicrania, ha fatto mille visite, mille cose, non li passava, ogni giorno era così. Quella che viene sabato mattina sempre mal di testa, poverina, dice che c'ha non so cosa. Altro cervicale, sempre c'ha gli occhi, simili a occhi, occhi e piedi di luci. Faccia perdere, quando ne ho preso io di occhi non me ne voglio ricordare. Minimo una giubbia al zucco si scattola. Allora c'ha gli occhi dappertutto. Anche se, vabbè, so che fa male, mi prendevo il gas protettore, prima poi mi mangiavo qualcosa per dare un po' di... per non essere da solo nella parete dello stomaco, e poi me lo prendevo, perché quando c'avevo i dolori fortissimi non resistevo, tu lì. Adesso questo qualche piccolissimo dolorino ce l'ho ancora, ma poca roba, non è come prima, prima era insopportabile, non dormivo manco la notte, non ti riguardo, se dovevo dormire mi dovevo prendere i lucchi, se no non dormivo, e a volte non mi faceva nulla manco quello. Che poi fa male, la fegato, lo sai, il fegato è un filtro per il sangue, queste medicine fanno troppo male, io purtroppo devo prendere medicine perché è il gastroprotettore, perché giustamente me l'ha ordinato il cardiologo e quindi lo obbliga per forza, ne prendo troppe medicine, sono 9 pastiglie al giorno, dalla mattina alla sera, quindi, e se no non ne avrei preso, purtroppo speriamo che, insomma, grazie a Dio, stiamo andando avanti lo stesso, tranquilli. Oh, e la glicemia è sempre bassa, anche quando ho fatto la cicciata ho mangiato, glicemia addirittura 115. Anche io stamattina 115, lo stesso valore. Oh, ma non è subito che accorgo che la glicemia. E poi adesso dopo un pranzo non me l'ho misurata, adesso me la misuro perché mi ha sgridato che non gli ho portato i valori, ma io non glielo ho portato perché c'erano delle punte alte, quindi mi avrebbe sgridato. No, a me mi dice, hai fatto il monello, ho detto perché? Perché io me ne accorgo, mio. Ho detto guarda che ho mangiato che glicemia era bassa, sì, adesso, ma io dal sangue me ne accorgo, di alterazione, eccetera, eccetera. 6 mesi, certo che se ne accorge, dalla glicata se ne accorge, perché ti fa 6 mesi, ti legge 6 mesi di glicemia la glicata. Cosa lo vedano? E io infatti ho detto, beh, per 2 giorni mangio povero povero, così faccio l'esame del sangue e c'ho la glicemia bassa. Già era che bassa, ma però lui, così gli arretrati, ha sofferto tutto. Se quella sale a 9, a 8, vuol dire che tu hai esagerato, io ce l'avevo a 7. Vabbè, comunque non è sempre che mangio dolci, dai. Oia, adesso se ne parla, boh, venerdì a fare venire. Pare va più, no? Che ti... A me me l'ha detto il dottore, una volta va bene, poi Ramadan. Se poi la cosa insiste, fa male, fa molto male. Vabbè, la faccio un altro mese. Poi il diabete è una malattia vigliacca, perché non ti accorgi di nulla, poi di colpo da gamba. E ci vendo quei ballucci. Io ti sto dicendo ciò che mi ha detto il dottore, che è una malattia vigliacca perché non te ne accorgi. Poi se tu esageri, di colpo ti vengono ictus, devo sapere cosa ti viene ictus, infarti, tutte queste cose qua. Succede da un momento all'altro, è bastarda come malattia. Allora, l'ictus è sgugerato, perché con la cardiospirina che prendo io me l'ha spiegato il cardiologo, perché tanto tempo per questa cardiospirina, e mi ha detto guarda che gli americani lo prendono anche da 50 anni, a me non ti viene l'ictus, non ti viene nulla, quindi serve anche per essere più pulito il sangue, scorre più bene, rimane sempre liquido, capito? Io non so se tu la te prendi la cardiospirina. No, io cardiospirina non ne prendo, la prendeva mio padre perché aveva problemi di angina, però io non ne ho mai preso, grazie a Dio non ho mai avuto problemi al cuore. Io ho detto, allora ripeto quello che ho detto poco fa, io al cardiologo ho detto perché questa cardiospirina, ho detto guarda che gli americani, anche se non hanno niente, si prendono la cardiospirina per evitare di avere un ictus, hai capito? Perché dilata le vene. Eh adesso la ti chiamiamo a fare il buco e tu non rispondi. Scommettete, non è questa la supposta. Vai Emanuele, vai a farti la visita alla prostata, che dopo ti acconsenti. Non c'è il prosciutto nelle orecchie, c'è, io l'ho sempre detto. Sempre che c'è il prosciutto nelle orecchie, già. Perché a volte lo chiamo, al telefono non risponde. Dopo due o tre giorni mi chiama, ma tu mi hai chiamato. Magari non lo guarda e non se ne accorge. È capito anche a me che mi hanno detto dal centro diabetico mi stavano chiamando due giorni e non rispondevo. E io vedevo che era un numero e non era di quelli nel mio elenco e quindi non rispondevo per quello, capito? Però era il centro diabetico che mi stava chiamando con un altro numero. Io tutti i numeri 079 rispondo. E poi se è una cosa che mi interessa, come è successo, che mi ha chiamato quello dei conti, me lo sono registrato col nome, eccetera, così. Quando mi chiamavano, eccolo qua, conti, capito? Ma invece i numeri cellulari strani, manco rispondo. Lei ha contattato questa tipa su Facebook. Ha voluto il mio numero, anche il suo numero, però c'è un 225 come più 225, chissà dove appartiene. Parla bene l'italiano, però non si capisce di barazzocchi. E lui ha detto di dove sì, non mi ha mai ripulito. Ma lasciale prendere, quindi, che sono quelle, già hai capito, no? Quelle che ti fottono. Occhio, che poi ti chiedono, vabbè, già lo sai cosa fanno, no? Ti fanno spogliare, ti fanno la fotografia e poi ti ricattano, ti dicono se non mi dai tanto lo metto su Facebook che sei un maniaco, che qua, che là, che ti fai vedere nudo. Ti fanno queste cose qua. Io non sono Giuseppe Leoncino, io mi spoglio solo davanti quando una donna è vicina a me, non certo così da solo, non so come, non sono pervertito, ma non tenerne, no. E poi già non ne ho bisogno, io giovedì ce l'ho, adesso anche sabato, quindi l'altra, e vado bene così, non ne ho bisogno di queste porcherie. Io non ho detto che ne ho bisogno, ho detto solo che fanno queste cose. Siccome è una giungla internet, bisogna anche sapere dove vai a parare. Vabbè, giorni prima un'altra ha contattato carina, quella che l'ha parlato, poi l'ho fatto, ascolta. Chiudiamo conversazione che non mi piace più, dai. Ciao, ciao, stammi bene, buona fortuna. E l'ha bloccata da tutte le parti, blu sparito. Adesso questa non mi risponde, adesso blocco anche questa. Essere via luci. Andà bene. Ma oggi è strano, che ne sono? 7:20 e non c'è nessuno, non entra nessuno. Carlo sta lavorando. Lavorando sta? Non lo so, sto chiedendo a te. È Natalino, in ascolto. Carlo ha lavorato stamattina. Natalino è in ascolto però. Ah non lo so se è uscito. Dai Natalino, rispondimi che ti devo chiedere una cosa molto molto importante. Cosa vuoi? Milovi. Non è Natalino. Già sono io. È che sono influenzato, sto crepando. Ma che ti ho pensato? Allora, quella ricetta giustamente è una crema. Io volevo sapere una cosa, io l'ho fatta a occhio alla fine perché poi non sapevo, non me l'avevi detto. Quando tu fai l'impasto, il latte sta bollendo, lo metti dentro, continui a girare, il fuoco a minimo, per quanto tempo devo girare col fuoco a minimo? O devo togliere dal fuoco? Fino a quando è dentro. Fin quando si appesantisce, fin quando si addensano. Quando è densa ne ragavi. Ok, quello mi interessava, poi basta. Ok, che era molto molto importante. Perché si deve avvelenare? Adesso la presento a farci questa crema, boh. Natalì, lascialo dire che mi ha detto quando copri i bignini me ne pieni, me ne porti qua. Ma era una battuta quella, non è voglio bignini. Lui, tuo caritale. Sì, sì. E ripirimenemi. Curiosità di. Ma lascialo di Natalì, ma tu bollimenti a Enzo, lo si può fare il Gacerillana di Torino e tu li bollimenti. Natalì già lo conosci. Oh, quel Franco mi ha contagiato, hanno contagiato a lui e lui ha contagiato a me, sono grimbato. Che è fruttato c'è la febbre che. Così ha fatto Dolino con me. Siamo usciti assieme l'altro giorno, grande. Cazzo, ma sono con la tosse, catarro, diarrea, qua, chi più ne ha più ne metto. Che diarrea è stata lì. Oggi sono entrato quattro volte in bagno, ma ho dovuto prendere l'imodium. vedi Gianni, c'è anche la diarrea natalino, c'è bisogno di fare la crema. Gianni. Mi dissocio. Ma subito ti dissocia lui, mamma. Anche nel mio se fosse la crema e il mutuo, le mini e poi gli arrego e dove ti carichi, capito? Quando mi sei già un chirurgo da me. Oh, l'avevano fatto un professore dell'università che bucciava tutti i gatti. Ci avevano portato le paste, i mini, però erano i mutiti con la popo. Schifo. Non gli avevano passato il virus. Il virus già. Mini al cioccolato. Chi su di Gozo era quello che l'esame di coso, come si chiama, ma col pensa si dava, di anatomia, bocciava tutti quanti, guarda, dovevi essere proprio una cima per promuoverti, se no non ti faceva passare l'esame. Poi se uno era diarrea, giallina era la crema. E un'altra volta sono andati vestiti a carnevale, gli hanno suonato il campanello, lui ha aperto la ricottura giusta. Peggio maestro. Bastardo, io ho visto qualche esame, questa qua, gli ha detto mi parli dell'organo genitale maschile. E quella lì è stata zitta, si è fatta rossa rossa questa tipa. E gli ho detto, allora di che cosa è? È un muscolo, è cosa? E lui gli ha detto, è un osso. E cioè, lei gli sarà sembrato così quando era duro. Che schifoso che l'ha fatta apposta per metterla in difficoltà, capito? E un altro, un greco, lo stava interrogando, gli ha detto la vena, invece che vena orta, ha detto la vena porta. Ha detto prima impari a parlare l'italiano, prima si guardi un po' il vocabolario d'italiano, poi può anche studiare e venire qui a dare l'esame. Allora ha fatto bene, gli hanno fatto quello, anche poco gli hanno fatto. E ne ho visto io, perché vabbè, c'avevo la ragazza che era in medicina, quindi andavamo a vedere quando davano gli esami, perché dovevo darlo anche lì. E allora abbiamo due, Franco e Natalino, con l'influenza. Ai ai ai. Speriamo che tramite il microfono non si contagi. Oh. Sì, via etere, ma... No, già no. E vabbè, ma adesso un po' di aspirina, mica, prendi l'aspirina, Natalino, oppure qualche medicina per far passare l'influenza e di bassa subito. E la tosse rimane, ma la sotto io l'ho presa, e la tosse per passarmi ci ha messo un... ho preso anche il miele. Perché la tosse che do io è un po' pesantina. Ma a fine, la che contagia di un mezzo mondo. Ma era contagiata a me. E a te che te l'ha contagiata. Quello è il problema, non vedi? Forse il supermercato. Oh, yeah. Tu te l'hai beccata nell'aria, poi l'hai contagiata a me, a Monica, alla madre, alla ex moglie, a tua figlia, cazzo. Una strage, ma tu sei un macho. Sì, ma vedi, quando io ho contagiato gli altri, me la sono eliminata e poi mi è passata a me. Ma così è. Cioè, per smolognartela tu l'hai contagiata agli altri, così è. I mamuzzi se non andare da una parte all'altra devono andare a Papuzza, perché se tu c'hai, come ti posso dire, cento lire, diciamo in italiano, dai, nel lire italiano, 100 lire in moneta da 10 lire una in tasca, insomma è di pizzi, quindi comincia a dare una a te, e la tasca si diminuisce, quando poi non ce n'è più, ovviamente sei pulito, è così l'influenza, germi qua, germi là, quelli vanno da una parte all'altra e tu sei mai più libero. Ehi, già cuscissi, già se ti deve venire io non la mai deve faccia né a te né a me né a nessuno. Stando un attimo in bagno. Scappa. Avanti Natalino. Io via. Ieri notte cazzo non ho dormito nulla. Adesso vuol dire nulla. E anche io ho avuto la tosse che lo contagiava loro. E ti dirò Natalino lo stesso. Posso capirti perché neanche io dormivo con la doccia, non ogni tanto non avrei aspirato, tosse, mi alzavo un po' di miele, via, mi passava qualche minuto poi di nuovo, mi alzavo e ui, ho detto quel ricatto ne viene di più, non sapevo più come dettagli io questa doccia, poi mi friggeva la gola. E stanotte me l'ho passata male, cucciche. E da voi, tu Manzano, ha già attaccato ad entrare in bagno. Cosa ti ha fatto male? Qualche pasticca? No, influenza. influenzale è il sintomo. Cazzo, ti vuoi sfruttare il gioco, influenza a portiere. Ma ti ho pigliato la tachipirina. Da voi mi ha fatto comprare lo sciroppo per la tosse. Quello senza zucchero che già accetta di diabete. E li muti un fa la diarrea. C'è stata una visione, aspetta. Quattro volte sono entrato in bagno. È il casino che poi appure entra, fai Eva, e come se poi te la terza, quarta volta poi ti si è rosa la canna e friggi. È un casotto, infatti è soggiato meglio, un po' la tosse c'ho ancora. Un'influenza maledetta, in giro è per carità, ma come hanno abbigliato, ma come spero che non mi perdi. Come mi attacca di nuovo a me, passo subito da Gianni. Ma sicuramente è Franco che mi ha contagiato, perché a Franco chi l'ha contagiato è Lucia che l'ha influenzata. Le facci come tiede, arrivi da contagiare da Franco, ma chi si vede si l'ha pigliata in continenti e da... E quella è più pesantuccia è mia. Ui. Dai, Peter. Oh, ma io l'ho visto a Lucia quando è arrivata. No, che baciata. Icca, Peter. Ma com'è non me l'ha contagiato? Sì, Franco l'ha contagiato due, invece. Siamo andati a fare delle commissioni assieme con Franco. E devo dire che Edwin mi ha contagiato a me. Senz'altro in macchina, gemme camminano, volano. Gianni, se ne è entrato? Già sono rientrato, se io non me l'ho giubilata in macchina con te. Ho detto, allora poco fa non esito, me lo ripeto. Ho detto, speriamo che non mi attacca di nuovo a me, perché come mi arriva di nuovo...